Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Siete sulle frequenze di Ondivago, uno spruzzo salato da Max Ponte. In questo numero parliamo di un giovane artista giapponese che si chiama Shinya Sakurai. Siamo stati alla sua mostra personale che ha inaugurato alla galleria Timber di Pragelato, una località turistica nelle montagne piemontesi. La mostra rimarrà aperta fino al 1° di maggio. Trovate maggiori informazioni sul nostro sito. Intanto vi mando il testo critico che ho scritto per l'esposizione. Shinya Sakurai, la ricostruzione solare. Shinya Sakurai, giovane artista giapponese in Italia, nato ad Hiroshima e laureatosi all'Accademia di Osaka, si sta facendo spazio nella scena europea del contemporaneo. L'artista ci recapita un immediato messaggio di pace e di ottimismo, che riguarda il passato del suo paese ed ora anche il futuro prossimo. E così il suo è un sollevante che ci leva e ci eleva dalle oscurità, della storia e degli incombenti disastri naturali. L'opera di Sakurai ha fatto subito pensare alla pop art, cosa che l'autore non disdegna ma neanche riconosce. Interessato dal gruppo Gutai e dall'arte povera in Italia, l'artista non rivendica legami o paternità e sviluppa una tecnica propria che unisce l'antica tintura della tela shibori a colature cromatiche e soluzioni viniliche. Il colore risulta lucida estensione e sospensione in bolle trasparenti, in caramelle offerte alle papille dell'occhio. Ritrovare assonanze con la celebre Kusama può essere piacevole ma non determinante per la comprensione. L'applicazione di cuoricini, che contraddistingue fortemente l'opera di Sakurai fino al 2010, è una impavida espressione d'amore universale, che è simile nel suo disarmante trasporto agli emoticon che animano le chat o commentano una foto su Facebook. I quadri rispondono non solo ad uno slancio vitale tutto personale ed identitario, ma anche ad un tratto etico che li rende insoliti e superiori alle usurate usuraie derive nichilistiche contemporanee. Essere contemporanei per l'autore non è solo una questione formale, ma anche di interpretazione diretta dei mali del proprio tempo. L'arte di Sakurai affronta senza paura le onde anomale dell'esistenza per accendere un vitalismo che ci fa dimenticare gli scenari postumani e gli eventuali compiacimenti estetici. L'arte per me è qualcosa di potente, mi rivela l'artista in estrema sintesi nel corso di un viaggio in auto. Assistere ad una sua mostra significa entrare in quella solare ricostruzione di cui l'arte dovrebbe essere veicolo. Abbiamo al microfono l'artista Shinya Sakurai. Allora, dicevo, Shinya, che appunto commentando il tuo lavoro c'è questo messaggio di ottimismo che vale per il passato, ma a questo punto, visti anche gli ultimi avvenimenti, può essere proiettato anche nel futuro. Cosa ne pensi di questa prospettiva, di questa possibilità? Questo disastro è molto peccato, ma i giapponesi adesso, tutti gente per ricostruire, molto c'è potenza, loro serio è anche nostro carattere più forte, perché nostra storia è sempre così. Mio lavoro per tema di Hiroshima, per ottimismo per il futuro, e fatto di anche Hiroshima 60 anni fa, tutti gente dice finito, morto, ma adesso grande città vivace. Quindi anche questo di disastro dopo, tutti possibile fare di ricostruire nuovo ottimismo di futuro. Possibile secondo te una rivalsa, una ricostruzione, quindi un messaggio ottimista. In questo momento appunto stiamo parlando della mostra che è in corso alla Timber Gallery di Pragelato. Quali opere, diciamo così, hai pensato di esporre in questo caso? Questa volta faccio di mostra il titolo Shower of Love, come pioggia di amore. Questo titolo a Hiroshima dopo di bomba è fatto di pioggia di neri, quello molto brutto, influenza molto male. Ma adesso tutto ricostruito di Hiroshima, tutti città molto vivace, molto attivo. E quindi adesso ho bisogno di, non è pioggia di, pioggia di neri, pioggia di amore, pioggia di colore. Quindi fatto di tutti opera, fatto di colorato o qualcosa di colore forte, e per quello pioggia di amore. La pioggia nera, che era la pioggia dovuta alla, al disastro atomico, diventa una pioggia colorata nel tuo caso. E in particolar modo poi vogliamo anche un po' parlare della tua attività artistica e del tuo rapporto con l'Italia. Tu sei arrivato qualche anno fa in Italia e adesso ti muovi tra il Giappone e il nostro paese. È un rapporto insolito. Perché hai scelto l'Italia e come pensi di... che cosa, dove pensi di restare nel tuo futuro prossimo? Io ho laureato in Giappone Accademia delle Belle Arti quasi 7 anni fa. Dopo subito voglio vedere per arte contemporanea di europei, perché arte contemporanea nasce qui, quindi nato qui, quindi voglio vedere, perché in Giappone di arte contemporanea, quando io prima di partire un po' ritardo, quindi voglio vedere per vivo di arte contemporanea. E non è solo per solo opera, è anche galleria, mercati, sistema. Io ho visto qui, adesso in Giappone anche arte contemporanea è molto vivace, quindi possibile in Giappone e gli europei non è ponte, ma sempre bisogno di influenzare e scambiare. Quindi io, se quando stare in Italia è straniero, è giapponese, ma quando ritornato in Giappone anche loro dice come italiani, troppo influenzato di europei. Quindi posso vedere più tranquillo da fuori Giappone, posso vedere Giappone più tranquillo. Quando ritorno in Giappone posso vedere più tranquillo Italia, quindi un po' posizione più silenzio. E mio lavoro un po' politico, un po'... come pace, amore, dire facile, ma presentare molto difficile, perché è molto grande idea, ma molto astratto. Quindi io voglio spiegare molto facile e cosa voglio dire, voglio presentare. Quindi usare di coricini, usare di fungo, usare di pioggia, molto simbolare, ma bisogna di per presentare questa idea. Quindi le opere che abbiamo visto sono caratterizzate anche da, oltre da questa colatura di colore vinilico eccetera, anche dal simbolo, insomma, del cuore, che è anche un simbolo semplice, anche se vogliamo impegnativo, se vogliamo. Le altre opere nuove che abbiamo visto, che esporrai poi probabilmente nei prossimi mesi, hanno come tema un fungo stilizzato. E questo è una tua idea degli ultimi mesi, dell'ultimo anno? Sì, perché fungo, anche immagino stessa cosa di quello di pioggia di neri, è molto negativo anche fungo a Hiroshima, ma nostro non posso dimenticare questa cosa, ma dobbiamo andare davanti. Quindi voglio usare quello di simbolare di fungo, ma tutto colorato, tutto positivo. E così icone di più popolare e molto leale. Ultimamente tutti gente, giovani, tutti dimenticati questa cosa. Questo tema, forse quando io sto in Giappone non pensiamo questo tema. Io vivo in Italia, quindi ho sentito tante cose questo problema. Quindi hai deciso di affrontarlo in questo modo, sì. Sì. Va bene, quali sono i progetti prossimi? Adesso non diciamo i giorni, ma perché comunque il programma andrà in onda nel corso della tua mostra, ma quali sono i tuoi progetti per i prossimi mesi, diciamo? Tu prevedi di ritornare in Giappone, poi di ritornare, se, da quello che mi hai detto, nell'estate, sì. E quindi hai degli appuntamenti, penso, quest'anno. Sì, qualche mostra personale comincia in Italia, in Giappone, e primavera, fine primavera, è quello di Mostra Fuori di Milano a The White Gallery, 29 marzo, in agro, dopo quello di mostra 2 aprile, pregelato, e dopo in Giappone qualche mostra faccio, e prima di settembre ancora ritornerò a fare di mostra in Italia. Avete ascoltato la nostra puntata dedicata all'opera dell'artista giapponese Shinya Sakurai. Vi ricordiamo che la sua mostra è in corso alla Galleria Timber di Pregelato fino al 1 di maggio. Per maggiori informazioni trovate il link della Timber sul nostro sito. Vi ringraziamo per aver seguito Ondivago. Ritrovate le nostre puntate alla pagina ondivago.blogspot.com. Iscrivetevi al nostro gruppo su Facebook per ricevere tutte le informazioni. I nostri più ondivagosi saluti. Ondivago, parcours ondoyant attraverso la letteratura, les arts e la cultura. Un programme conçu et présenté par Max Ponte. Info ondivago.blogspot.com. Email ondivagoradio@gmail.com.